dammene tante. La voglio più pesante questa volta. Ho la faccia capovolta e la mentalità stravolta. Resto fuori dal mio branco come un lupo solitario. Vivo ancora in Italia, ma invertendo il fuso orario. È una vita molto strana quella che rivedo adesso. Da impiegato incravattato che si impicca dentro al cesso. Ma sono depresso, non sono andato in centro. Ho solo messo tutto quanto rotto sopra il pavimento. E sarà che prima per un raptus di follia ho visto questa malattia come splendida poesia. In corsia psichiatrica me l'avevano detto che un giorno avrei parlato con gli spiriti sul tetto. Ma mi sento spesso in mezzo al disprezzo di sta gente che mi osserva e che mi vende a poco prezzo. E questa solitudine diventa un'abitudine che forgia il mio carattere fra odio e gratitudine. Sono depresso, depresso, depresso, e sempre più spesso mi sento depresso. Sono depresso, depresso, depresso, ma adesso depresso ci resto lo stesso. Sono depresso, depresso, depresso, e sempre più spesso mi sento depresso. Sono depresso, depresso, depresso, ma adesso depresso ci resto lo stesso. Depresso perché la mia vita non c'è più. Mi sorride come scimmie sopra gli ana testa in giù. Ma un sorriso la rovescia, è una smorfia depressa. Trasforma gioia in paranoia come quelli anch'essa. Resta all'ultimo banco di questa scuola dove professori rapper fanno finta che sia buona. Quella merda che propinano è un pezzo che non la vedo. Se sia giusto oppure no, col cazzo che me lo chiedo. Lo faccio stanotte, bevo l'inchiostro e basta. La lingua che si impasta, col corpo che collassa. E depressa sulla cassa, resta la carcassa. È carta che canta ma tanto non passa. E non passa, sta gente qui è pazza. Tra pomeriggi in piazza, sul fondo di una tazza. Nascosti in un caffè oppure a scuola, fare canne dentro al cesso. A te questo piace sempre, a me rende depresso. Sono depresso, depresso, depresso, e sempre più spesso mi sento depresso. Sono depresso, depresso, depresso, ma adesso depresso ci resto lo stesso. Sono depresso, depresso, depresso, e sempre più spesso mi sento depresso. Sono depresso, depresso, depresso, ma adesso depresso ci resto lo stesso.